Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata cari gastronauti. Ebbene, buona giornata a chi anche vuole mettersi in viaggio in questo weekend o già si è messo in viaggio da venerdì, ma si può sempre cambiare rotta, perché ora vi daremo una serie di consigli, di itinerari tra cibo e arte. Ebbene, vi parleremo di posti che potete ritrovare, dove mangiare o dove acquistare, vicini a delle grandi mostre. Quindi sicuramente una trasmissione adatta sia chi viaggia per cultura e chi viaggia anche per il cibo e per scoprire nuovi ristoranti. Ebbene, iniziamo questo viaggio da Urbino, che in questo periodo ospita una straordinaria mostra, la mostra di Raffaello, appunto, e credo nel bellissimo Palazzo Ducale, Raffaello, tanti altri luoghi davvero interessanti in questa cittadina davvero straordinaria da essere visitata e da essere scoperta. Quindi c'è pane sicuramente per la cultura, ma c'è anche pane sicuramente per chi ama la cultura materiale, per chi ama il cibo, per chi ama scoprire ristoranti. E allora io vi porto in un ristorante a pochi chilometri, anzi vicinissimo a Urbino, ma ne vale la pena perché questo ristorante è davvero molto affascinante. È un ristorante difficile da trovare in Italia, perché ricorda un po' sicuramente certi locali anche americani, nonostante ci sia all'interno un gusto molto ma molto italiano. Quindi un posto dove anche sedersi, stare tranquillamente, c'è anche un laghetto fuori di questo locale, e quindi vale veramente la pena. E allora questo ristorante si chiama Acquerello San Giacomo, è nella frazione San Giacomo appunto di Urbino. Ma sentiamo un po' cosa si può mangiare in questo locale. Io do il buongiorno a Massimo Emiliozzi, che è lo chef appunto di questo locale. Buongiorno Massimo. Salve, buongiorno a tutti. Allora, in questo periodo quali sono i piatti che così possono gustare i nostri viaggiatori di cultura e di gusto? Ma in questo periodo adesso siamo alla riscoperta, cioè siamo alle prime verdure primaverili, per cui iniziamo con quelle che sono, ecco, i nuovi sapori più freschi, più caldi, anche se il tempo non ci aiuta in questo. Però ecco, stiamo preparandoci, ecco, in questa direzione, diciamo. Ecco, ci dai un po' così, magari, il menù che tipo di questi giorni? Il menù tipo di questi giorni stiamo preparando, allora, delle lasagnette. Delle lasagnette in modo di raviolo aperto con degli asparagi e una leggera salsa di casciotta d'Urbino, appunto. Che è il prodotto tipico appunto che è un prodotto tipico qui del locale. Ecco, diciamo subito che la casciotta deriva da cacio, e quindi sicuramente cascio o cacio, quindi è caciotta di Urbino, perché casciotta è il nome sicuramente antico. C'è chi dice addirittura che questa S così aggiunta sia ripresa dal linguaggio parlato, che in questa zona si striscia molto la C, se non erro, vero? È così? È così. Ecco, la casciotta di Urbino, quali caratteristiche ha? Bisogna mangiarla fresca, stagionata? Ma è un formaggio che si mangia con una stagionatura molto breve, quindi diciamo fresco, è un formaggio che va mangiato fresco. Ecco, io ti ho interrotto, però vai pure avanti col tuo menù. Poi abbiamo appunto della carne appunto locale, un battuto di carne con delle erbe spontanee, dei sibillini. E poi abbiamo anche del pesce, perché facciamo anche del pesce, tipo, non so, dei rombi, adesso è il momento anche dei totanetti freschi, quindi facilmente reperibili, ed poi abbiamo, diciamo, tutto il pesce dell'Adriatico, si ricomincia con le fritture, con questa tipologia di pesce. Ecco, arriviamo al dolce, dacci un dolce. Dolce. Del dolce in questo momento stiamo proponendo un dolce fresco composto da una spuma di yogurt con delle fragole. Bene, un dolce fresco sicuramente estivo, sperando nell'arrivo del bel tempo. Bene, io ti ringrazio, grazie ai miei, a Massimo Emigliozzi del ristorante Acquarello, appunto di San Giacomo, che è una frazione vicino a Urbino. Bene, e devo dire che chi va a vedere la mostra di Raffaello però non deve tornare via senza avere acquistato una crescia, la crescia che è un pane azimo molto particolare che si fa solo ed esclusivamente in quest'area, in questo territorio, è molto gustosa. E io consiglio anche di andarla ad acquistare alla Raffaello Degusteria, che si trova in via Bramante, sempre a Urbino. In questo negozio si trovano tutte le specialità del territorio, a cominciare di biscotti fatti da forni a legna, ma si può trovare anche un rosso, il rosso di Raffaello. Ebbene, è evidente che le mostre portano anche comunicazione. Ma da Urbino, lo ripeto, la mostra di Raffaello e questo ristorante, quindi una buona accoppiata con acquisti alla Raffaello Degusteria, ora andiamo in un'altra città, andiamo in un altro territorio e andiamo in Trentino Alto Adige, perché in Trentino Alto Adige a Rovereto c'è un famosissimo museo di arte moderna e contemporanea, il MART, che ormai è diventato molto noto, e qui c'è una mostra sul futurismo, Futurismo 100, Illuminazioni, Avanguardia e Confronto, Italia, Germania, Russia. Bene, voglio ricordare anche che a Rovereto esiste una mostra particolare che riguarda De Pero. De Pero è nato a Rovereto e credo che sia una cosa da non mancare questa visita deperiana, anche perché De Pero ha disegnato moltissimi manifesti pubblicitari anche con tema appunto il cibo. Non solo, ma in una rivista che ho ritrovato in una bancherella del 1933, Futurismo, ho ritrovato una splendida ricetta appunto di questo personaggio che appartiene al futurismo, quindi anche lui può rientrare nel corso della cucina futurista. Bene, vicino a Rovereto, a Sasso di Nogaredo, esiste una locanda che si chiama D&D e io saluto Ivano Dossi. Buongiorno Ivano. Buongiorno. Cosa offre il paiolo in questo periodo? Perché se ben ricordo da lei c'è sempre il paiolo e la brace. Sì, no, abbiamo sempre ancora il nostro camino rustico alla Trentina a vista, su cui facciamo cuocere la polenta di grano turco marano rosso coltivata e macinata da noi, e le succulente puntine per qualche ora. Ma adesso stiamo aspettando come tutti la primavera, che dovrebbe portarci le nostre erbe di campo. Noi lavoriamo con le erbe fresche, quindi anche le ortiche, e adesso la signora Scottini, che ha un allevamento di piccole capre, ci porta, incomincia a portarci la ricotta di capra. Ah, benissimo. E cominciamo a fare i gnocchetti di capra alle ortiche. Senta Dossi, ma voi non avete fatto un piatto sul futurismo? Allora, noi abbiamo fatto addirittura una cena sul futurismo, quando c'era stata l'apertura. Abbiamo un po' copiato dal manifesto di Marinetti, con le varie portate differenti, eliminando ovviamente la pasta, solo il riso, il polpettone e via dicendo, e i camerieri in realtà erano dei ballerini che, come nel manifesto, facevano profumare e sentire i profumi delle varie spezie agli ospiti man mano che assaporavano i piatti. Bene, io la ringrazio Dossi della locanda D&D Sasso di Nogaredo, quindi chi andasse sicuramente a vedere la mostra del futurismo al Mart, con qualche chilometro si trova in questa vallagarina splendida, terra del Marzemino, e sicuramente si troverà molto bene. Il gastronauta. Sine qua non sempre, cari gastronauti, continuiamo questo viaggio fra mostre, quindi fra cultura e cultura materiale, il cibo. Infatti vi portiamo laddove ci sono mostre o eventi culturali importanti, ma allo stesso tempo vi segnaliamo dei locali dove mangiare o dei locali dove acquistare dei prodotti del territorio. Ebbene, avevamo lasciato Ivano Dossi della locanda D&D del Sasso di Nogaredo in Vallagarina, perché abbiamo parlato del MART, questo museo bellissimo dove c'è una mostra sul futurismo, ma ora continuiamo in questo territorio perché non posso dimenticare la Casa del Vino di Isera, a me molto cara. Buongiorno Luca Bini. Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti i vostri ascoltatori, buongiorno. Bini, cosa mangiamo in questo periodo? Anche voi vi siete inventati qualcosa di futurismo oppure rimane la tradizione del vostro locale? No, concretezza e tradizione, un periodo fantastico dedicato agli asparagi della zona, i bruscandoli, ortiche, le prime morchelle della stagione dolcissime, solo prodotti nostri proprio del momento. Senta Bini, vogliamo spiegare ai nostri radioascoltatori cosa sono i bruscandoli? Perché in molte altre aree d'Italia non si conosce questa parola, la vuole spiegare? Il bruscandolo tecnicamente è la cima di luppolo, è proprio un'erbetta che cresce in questo momento subito dopo le buone nevicate con i primi soli della primavera. È un prodotto che noi utilizziamo moltissimo, dalle frittatine appunto che diventano molto dolci, delicate, i risotti all'abbinamento col pesce di fiume, un prodotto molto faticoso da andare a raccogliere, ci pensano alcuni pensionati della zona che fanno chilometri e chilometri tutte le mattine, ma che veramente al piatto poi danno sensazioni uniche. Senta, come secondo piatto cosa c'è in questo periodo di particolare? Ma in questo periodo, nonostante tutto, noi stiamo utilizzando del maialino da latte, sì, nel taglio della reale o della guancetta. Non manca mai un bel pollo ruspante cucinato con il nostro vino marvenino, abbiamo il nostro pesce di fiume, di lago, perciò dal salmerino al coregone, qualche gambero di fiume anche in questo periodo. Ecco, lei ha nominato il maialino con un momento così, come posso dire, di attenzione. Allora io voglio dire, questo è già ormai dimostrato, che non è la carne di maiale che trasmette la terribile peste che diciamo che sta avvenendo. Quindi non, assolutamente, secondo me, non bisogna avere questa ritrosia. È ormai dimostrato, arcidimostrato, quindi sicuramente mangiamo tranquillamente il maiale perché pericoli non ce ne sono. Bene, Luca, però volevo sapere da lei una cosa, diciamo la Casa del Vino è storicamente un po', come posso dire, il forum di tutti i produttori vinicoli della Valle Agarina. E allora ci dà qualche dritta, qualche etichetta interessante? Sì, beh, diciamo che innanzitutto nella Valle Agarina il vino che la fa da padrone come principe è sicuramente il marzemino, perciò potremmo parlare di tutti i marzemini rappresentati dalle cantine sociali e dalle piccole aziende vinicole che ci sono qui sul territorio. Ecco, diciamo subito che chi volesse acquistare, viene a mangiare da lei, può acquistare i vini perché la sua è anche l'enoteca, la Casa del Vino appunto, che è un po' la congrega di tutti i produttori di vino, ma sì, volevo anche dire che vicino c'è la cantina sociale del Marzemino, che è un'azienda storica. Sì, Cantina Sociale di Isera ormai vive da 100 anni, è stato celebrato proprio l'anno scorso, una cantina incredibile che si sa rinnovare giorno per giorno, dando veramente dei prodotti tipici e concreti. Ci dia anche qualche altra chicca, qualche di vino, qualche etichetta, perché lei una volta mi ha dato un'indicazione di un vino naturale molto interessante, quindi vediamo se c'è qualche altra chicca da darci. Ci sono alcuni piccoli produttori che stanno lavorando sul versante proprio di rispetto alla natura. Potrei darle il nome di un Pino Nero di Elisabetta Dalzocchi, una piccolissima cantina, produce 4.000 bottiglie all'anno, veramente una nicchia. Dagli spumanti di Nicola Balter, dei rosé sempre spumantizzati della signora Lucia Letrari. Diciamo che è una zona da conoscere perché è veramente molto versatile, dai grandi vini mossi a vini rossi importanti, ecco, vini da meditazione. Abbiamo vini e c'è qualche altro prodotto appunto del vostro territorio particolare che si può acquistare? Ma ci sono sempre i formaggi d'alpeggio che noi utilizziamo anche nei nostri menù e che abbiamo poi enoteche in vendita proprio rappresentati dal caseificio di Sabbionara, perciò nelle varie stagionature, e poi andando avanti si potranno incontrare comunque delle farine di polenta lavorate appositamente per noi, perciò molto grezze, grossolane, i mieli, dei salumi affinati, la grappa di mirtillo nero, molte cose golose. Bene, grazie Luca Bini, quindi veramente una grande buffata che si fa vedere il futurismo, la mostra del futurismo 100 al MART, e quindi continuiamo da Rovereto, andiamo nella mia terra, addirittura andiamo a Forlì e andiamo alla mostra del Canova, l'ideale classico tra scultura e pittura, ai musei di San Domenico. Bene, di fronte a questi musei dove c'è questa mostra appunto sul Canova, c'è una trattoria davvero molto ma molto interessante che si chiama appunto Osteria Don Abbondio. Bene, abbiamo con noi il patron, un giovanissimo patron, Simone Zoli. Buongiorno Zoli. Buongiorno signor Paolini e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, cosa ci offre in questi giorni il suo locale a chi viene a vedere questa mostra? Ma noi siamo un'osteria, per cui facciamo... Beh, siamo un'osteria, insomma, io ci ho mangiato e ho fatto anche gli elogi. Ora non buttiamo Gesù, la sua è un'osteria, no. Ha scritto l'osteria, però dentro c'è una grande qualità. Ma l'osteria non vuol dire che l'osteria non faccia qualità, noi cerchiamo di ricordare i piatti della tradizione e per di più quei piatti un po' dimenticati della tradizione romagnola. A cominciare dal basotto, eh? A cominciare appunto dai basotti, che sono a mio parere un piatto quasi innovativo, quasi creativo della cucina tradizionale romagnola. Ecco, lei lo chiama Basotti, io preferisco chiamarlo col suo vecchio nome Basot proprio. Sì, Basot. Io ho questa S un po' così, sì. Per cui mi esce anche quasi naturale questo termine Basot. Vorrei cominciare dal suo antipasto, perché il suo antipasto prevede il raviggiolo. Raviggiolo, sì. Che è un formaggio che pochi conoscono, perché è un formaggio dell'Appennino romagnolo e toscano. È un formaggio che ha vita breve, servito nelle felci di solito quando si compra, però sicuramente è poco conosciuto fuori. Ecco, lei lo serve in maniera particolare, se non erro. Io lo servo accompagnato a dei funghi sfiandrine saltati in padella velocemente e con una ciotolina di germogli di legumi arrostiti e croccanti, saltati anche questi in padella spessa. Ecco, altri primi piatti, ce n'è un altro in particolare che io amo con un'erba spontanea, sono gli strozzapreti. Ce lo vuoi raccontare questo piatto? Sì, è l'abbinamento degli strozzapreti con il ragù e gli stridoli, sono il piatto classico appunto romagnolo, però rinfrescato con questa erba di campo, un'erba primaverile che si trova proprio in questo periodo. Ecco, una cosa volevo chiederle, si trovano facilmente gli stridoli? Ma sì, ma semplicemente facendo una passeggiata in mezzo alla campagna sono erbe spontanee, non è assolutamente complicato né riconoscerli né trovarli. Ecco, ci dà un secondo piatto anche? Sì, ma secondo piatto a cui sono molto affezionato è la trippa. La trippa noi la serviamo in questo momento bianca con verdure e pecorino di grotta di Predappio. Ecco, le grotte diciamo che dove c'erano le antiche zolfatare di Predappio, quindi paese, borgo molto noto politicamente, però diciamo che questo pecorino è davvero stato una grande trovata. Ma io volevo arrivare anche ai dolci perché ce n'è uno che mi ha conquistato, devo dire, che è la cassata alla romagnola. Bene, me la racconti perché veramente mi ha colpito questo dolce. È una bavarese ghiacciata, in cui al posto della ricotta, della cassata originale, noi abbiamo sostituito lo scoccherone, il nostro formaggio fresco romagnolo. Ovviamente all'interno di questa bavarese ci sono i canditi, il pistacchio invece è nella salsa, quindi esternamente guarnita. È una cassata diciamo scomposta e appunto usando comunque i prodotti dei nostri locali. Bene, questa trovata di aggiungere lo squacquerone al posto della ricotta, quindi sostituire il prodotto tradizionale di quella siciliana, secondo me è un'intelligente trovata localistica, anche perché lo squacquerone, a parte del raviggiolo, sono due formaggi straordinari. Peccato che tutte e due abbiano vita breve, non si possono trasportare molto facilmente. La ringrazio, Zoli. A presto. Grazie a lei. Bene. Ora andiamo a Como, andiamo alla mostra di Villa Olmo, Chagall, Kandinsky, Malevich, maestri dell'avanguardia russa. Ecco, chi è che va a vedere questa mostra? Io, anche se c'è un po' di strada da fare, consiglio una trattoria a Proserpio, sempre in provincia di Como, la trattoria In Arca. Buongiorno a Pierantonio Colombo. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti. Cosa offre la stagione in questo momento, Pierantonio? Allora, siamo praticamente aspettando il caldo e quindi orientati verso ai piatti un po' più leggeri e orientati verso i piatti di lago, ai nostri pesci di lago, di acqua dolce naturalmente. E niente, abbiamo gli agoni famosi, i lavarelli, le alborelle in campione e vabbè, i missottini ci sono tutto l'anno, che però sono anche abbastanza versatili, perché facciamo anche oltre ai servirli normalmente, come si, alla piastra facciamo anche delle salse, la serviamo con del quartirolo, che è un formaggio esclusivamente locale, e facciamo appunto, aspettiamo la stagione. Poi vabbè, siamo sempre agganciati ai nostri piatti di carne, i tagli di pollo, le frattaglie, e poi i polli, i conigli, solite e qualche dessert tradizionali ancora del territorio. E qualche dessert? Dessert aspettiamo anche qui, fra 15 giorni dovrebbe fiorire il Sambuco, che andremo a cogliere, e facciamo un buonissimo gelato al Sambuco, che è una nostra, diciamo, chicca, tra virgolette. Sì, sì, appunto è veramente una grande chicca. Ma siccome c'è la mostra dell'avanguardia russa, piatti di avanguardia russa non ne fate, no? Per ora no, per ora non siamo ancora preparati, ma per ora no, proprio no, mi dispiace. Bene, allora segnalo per chi va a vedere questa mostra a Villa Olmo a Como, la trattoria in Arca, Proserpio, sempre in provincia di Como. Il gastronauta. Siamo ancora in viaggio, cari gastronauti, tra una mostra e una cena, tra un formaggio e un salume. E torniamo ancora in terra di Romagna, perché oltre alla mostra Canova di Forlì, appunto ai Musei San Domenico, si vede che in questo periodo appunto la Romagna è particolarmente attiva dal punto di vista culturale. Segnalo un'altra mostra, che è l'arte contesa nell'età di Napoleone, Pio VII e Canova. Quindi sicuramente è un'altra mostra che può fare da pandan a Forlì, da Forlì si va a Cesena. Volevo ricordare, parlando prima della mostra di Forlì, quando abbiamo parlato di prodotti romagnoli, che il ravigliolo, questo formaggio particolare appunto che si produce sull'Appennino che parte da Santa Sofia e arriva fino a San Piero in Bagno, Alfero e poi anche fino in Toscana a San Sepolcro, volevo dire che si può trovare sicuramente da acquistare. Mi viene in mente un buon produttore a Santa Sofia che si chiama Boscherini, uno di coloro che hanno salvato questo formaggio, perché era in via di estinzione, non solo, ma era abbastanza combattuto dalle ASL, come spesso succede in questo paese per le cose buone. Ma continuiamo appunto, abbiamo parlato ora di Cesena, di Forlì, e ora vediamo cosa si può fare oltre andare a visitare queste mostre. Bene, credo che in questi giorni una tappa potrebbe essere Squisito a San Patrignano, che è una manifestazione gastronomica dove c'è un villaggio degli artigiani con tanti prodotti, ci sono tanti ristorantini dove si possono mangiare fritti, si può mangiare soprattutto la piadina, ecco perché non si può tornare dalla Romagna anche dopo aver gustato la cultura senza aver assaggiato una piadina ben fatta. E allora chiediamo a Carlo Bozzo di San Patrignano di dirci cosa può trovare un visitatore dopo due mostre di notevole, così diciamo, livello, ma anche, come posso dire, pesanti tra virgolette, cosa può trovare di allegro in quel di San Patrignano in questi giorni? Buongiorno intanto. Di allegro diciamo che può trovare la tavola della Romagna e in generale la tavola del nostro paese. Tavola della Romagna non solo piada, ma anche i grandi salumi di mora romagnola, lo squacquerone, che è l'altro formaggio principe del nostro territorio. Ma diciamo che poi Squisito un po' è una grande manifestazione sul mondo del cibo in generale. Si può fare un picnic a San Patrignano su un grande prato d'erba con dei menù particolari per un picnic preparati da cuochi come Massimo Bottura piuttosto che Valentino Marchettilli o lo chef del ristorante di San Patrignano, Fabio Rossi. Si può trovare il barbecue, che se poi vogliamo è un po' la riproposizione della vecchia arrostida della Romagna, con le carni e con i pesci di questo mare e le carni del territorio. E poi soprattutto un viaggio straordinario tra 120 grandi artigiani italiani, partiamo dalla Sicilia e arriviamo fino alla Valle d'Aosta, 120 artigiani che ci dimostrano come vicino alla nostra casa, vicino a dove abitiamo, ci siano straordinari alimenti, buonissimi, fatti molto bene, ottimi per la nostra salute e che molto spesso costano molto molto meno di quanto siamo abituati a tirare fuori dal portafoglio in un normale supermercato. Bene Carlo, ti ringrazio, voglio sottolineare, abbiamo parlato prima di questa cassata alla romagnola con al posto della ricotta lo squacquerone eccellente, appunto quello prodotto dalla comunità di San Patrignano. Ebbene, continuiamo in questo viaggio nella cultura, ma abbiamo parlato di scultura, abbiamo parlato di pittura, abbiamo parlato e ora parliamo anche di fotografia, che è una grande arte. Allora andiamo a Reggio Emilia. A Reggio Emilia c'è una grande manifestazione di fotografia europea. Il tema di quest'anno è Eternità, il tempo dell'immagine. Appunto ci sono tante grandi cose in questa città, appunto in questo periodo, tutte diciamo rivolte all'arte della fotografia. E dove possiamo andare a mangiare se non in un grande ristorante di un grande chef a Reggiolo, appunto in provincia di Reggio Emilia, da Giovanni D'Amato, chef patron del Rigoletto. Buongiorno D'Amato. Buongiorno a lei, dottore. Cosa ci offre in questo periodo? Cosa c'è di, diciamo, di stagionale? Qualche piatto suo particolare che offre in questo periodo? Beh, sicuramente cominciamo con le verdure fresche, dai piselli agli asparagi ci sono tante possibilità. Possiamo offrire una zuppa di asparagi e piselli con pesci gatto, crostacei di fiume e bottarga. Ci sono tante possibilità. Senta D'Amato, pesce gatto, ci vuole raccontare un po' di questo pesce? Perché diciamo che quasi sembrava estinto questo pesce. Beh, sicuramente non si trova da molte parti. Qua abbiamo dei alcuni produttori dove ci offrono insomma questo pesce dalle carni pregiate, sono carni molto fini, carni bianche e carni molto appetitose. Ecco, sì, lei dove si acquista il pesce gatto? Diciamo nel Ferrarese? Nel Ferrarese, ma anche qua vicino a noi ci sono dei rivenditori, ci sono dei laghetti dove lei può acquistare insomma questo tipo di pesce. Senta, è un pesce che si cucina molto bene, si può far giocare molto la fantasia sul pesce gatto? Certo, con tutto si può far andare la fantasia. Chiaramente con un pesce diciamo povero così si può tirare fuori delle cose interessantissime. Perché si chiama pesce gatto? Pesce gatto dai baffi che ha nella testa, diciamo. Senta D'Amato, ci racconti anche qualche altro piatto? Faccia invogliare così, ci faccia sognare. Allora, se vogliamo restare sulla tradizione, sì. Possiamo parlare di un mille foglie di cotechino e zucca con aceto balsamico tradizionale. Oppure una terrina di bolliti, sempre servita con una diciamo terrina di verdure sott'aceto fatto in casa. Ecco perché ricordiamo che esiste e poi le paste, diciamo. Ora poi le faccio raccontare anche le paste. Volevo segnalare che esiste l'aceto balsamico tradizionale di Modena, ma anche di Reggio Emilia, quindi c'è pari dignità tra i produttori di questo aceto anche in terra reggiana. Passiamo alle paste, ci racconti le paste? Le paste qua insomma è un po' la patria della pasta. Adesso possiamo proporre un piatto particolare che sono dei cappelletti di lingua tonnata su una salsa di mele e sempre serviti con aceto balsamico tradizionale. Ah, fantastico, lingua tonnata. Lingua tonnata perché la lingua viene praticamente cotta insieme a un tonno chiaramente conservato e si sprigiona molti profumi, molti aromi, insomma è una cosa interessantissima da abbinare poi con il dolce della mela e diciamo una leggera acidità dell'aceto balsamico. Interessante. Ecco, finiamo con un dessert. Adesso si può, almeno in questa zona, almeno io propongo una una zuppa inglese. Beato lei che fa ancora la zuppa inglese. No, io la propongo, è un piatto chiaramente mio, personale, ritrattato, insomma. Beh sì, perché quello, diciamo, quello reale, insomma, quello tradizionale è abbastanza pesante, insomma, finito di mangiare. Sì, va alleggerito, mettendo anche della frutta fresca per poter, insomma, abbinarlo ai tempi d'oggi, ai tempi nostri. Lei lo mette l'Archermes? Io lo metto, ma lo metto praticamente sopra a un biscotto che faccio, separato dalla zuppa, insomma, non tutto assieme, non tutto. Le voglio chiedere un ultimo consiglio per i nostri viaggiatori, per i nostri radioascoltatori. Cosa consiglia di comprare di prodotti nella sua zona? Beh, sicuramente i salumi, vabbè, il parmigiano reggiano che anche delle vacche rosse, che è un parmigiano importante. E poi chiaramente abbiamo la zucca, abbiamo i cotechini, abbiamo, insomma, tante produzioni. Ecco, la mela companina, abbiamo diverse produzioni di cose interessanti. Bene, io la ringrazio, grazie a Giovanni D'Amato del ristorante Il Rigoletto di Reggiolo in provincia di Reggio Emilia. Il gastronauta. Continuiamo, cari gastronauti, questo viaggio fra cultura e cibo, fra mostre e piatti, fra quadri e prodotti. Insomma, stiamo mescolando la cultura, perché l'ho sempre detto e lo ripeto, il cibo è cultura materiale al pari delle altre culture, quindi è giusto che venga messo sullo stesso piano. E allora, dopo aver visitato Urbino, Forlì, Cesena, Como, ebbene ora andiamo in Piemonte in un posto bellissimo che è la Reggia di Venaria, dove è in corso una mostra, ma credo che si possa vedere anche la Reggia sia già di per sé uno spettacolo, le scuderie juvarriane della Reggia di Venaria, appunto. E abbiamo con noi un grande chef piemontese, Alfredo Russo. Buongiorno Alfredo. Buongiorno Davide, buongiorno, grazie. Del dolce Stilnovo alla Reggia, che si è spostato appunto dal suo vecchio ristorante in questo posto splendido, e credo che la regione Piemonte stia facendo un lavoro straordinario da questo punto di vista, di far sì che i grandi della cucina piemontese abbiano delle sedi storiche, quindi prima il Museo di Rivoli e ora la Venaria Reale. Bene, continui così, magari fra poco faremo un giro sicuramente tra i posti più belli del Piemonte, trovando assolutamente della cucina di grande qualità. Caro Alfredo, bene, tu sei uno dei cuochi d'avanguardia, quindi cosa offri in questo periodo, appunto, al visitatore della mostra che ha anche voglia così di mangiare, ma di mangiare al grande livello? Sì, guarda, come dicevi tu, qui in Piemonte c'è questo discorso di inserire dei ristoranti che propongono della qualità, del cibo di qualità all'interno di queste residenze, è un progetto che è già partito da molti anni e ha avuto un grande successo. Noi siamo stati, diciamo, l'ultimo ristorante di questa serie inseriti qua, ed è un posto magnifico. Noi nel nostro menù abbiamo ovviamente dei piatti che si ricollegano al nostro territorio. Qui siamo appunto nella zona del Torinese, siamo all'inizio delle valli di Lanzo e del Canavese, quindi abbiamo tanti prodotti straordinari, dai formaggi, tanti giacimenti gastronomici, come per usare un termine a te caro. Insomma, niente, abbiamo ovviamente offriamo dei piatti che utilizzando questi prodotti, e poi abbiamo piatti anche di cucina italiana e di cucina anche più moderna, ecco. Però insomma cerchiamo di essere molto eterogenei. Ecco, tu hai parlato di prodotti particolari, appunto, si possono anche acquistare nelle vicinanze del tuo ristorante alcuni prodotti che magari poi tu usi, formaggi, salumi? Guarda, sì, adesso c'è proprio un progetto, qui, innanzitutto qui alla Reggio di Venaria, come potete immaginare, che è stato un enorme complesso che è stato aperto, inaugurato l'anno scorso, e non tutto, nel senso che ci sono ancora molte zone che sono ancora chiuse al pubblico e verranno aperte, adesso lo state facendo. C'è appunto un'idea di quello di inserire anche, oltre al classico bookshop e al classico negozio che vende insomma dei souvenir, anche un negozio che possa vendere dei prodotti enogastronomici del Piemonte e delle valli qui vicine. Senti Alfredo, hai creato un piatto proprio dedicato a questo nuovo posto dove sei arrivato, che ti ha ispirato? Hai dedicato un piatto alla Reggia, appunto. Sei arrivato in questo posto così diverso da dove eri prima. Ti è venuta l'ispirazione per un piatto? Sì, guarda, proprio negli ultimi giorni abbiamo fatto un piatto che riprende che tra l'altro è una bevanda, il Bicerin che si fa a Torino. Certo. Che è questa bevanda a base di cioccolato, caffè, panna. E noi abbiamo, in realtà ho scoperto tramite gli storici della Reggia che qui alla Venaria si faceva un Bicerin un po' diverso rispetto a quello che si faceva nel centro di Torino, e che il conte Cavour solitamente usava sorseggiare nel corso qua centrale, in uno dei locali del corso centrale. E noi abbiamo avuto questa ricetta dagli storici della Reggia e abbiamo creato un dessert che è praticamente un Bicerin composto da diversi elementi, caffè, cioccolato, eccetera, eccetera. Insomma, quindi un Bicerin alla Venaria. Qual è il piatto che più di ogni altro ha successo in questo periodo? Guarda, è una cosa molto particolare. Noi abbiamo inserito in carta la cervella di vitello, che era un piatto che facevamo tantissimi anni fa, e poi quando era successo il periodo della mucca pazza, certo, era stato un po' tolto perché non andava naturalmente più. E poi per vari motivi non l'avevamo più inserito. Ebbene, l'abbiamo inserito da poco ed è uno dei piatti che va di più per la maggiore, perché è un piatto che a casa ormai la cervella raramente si fa, vero, nei ristoranti non sempre si trova, e quindi gli amanti del genere quando lo vedono lo richiedono. Speriamo anche che presto ricompaia i filoni, perché secondo me sono un altro piatto che con la mucca pazza si è dimenticato, anche se nella finanziera magari qualcuno ha continuato a usarlo, perché è un altro prodotto straordinario, una frattaglia davvero veramente straordinaria. Non so cosa ne pensi. No, beh, assolutamente sì, solo che appunto ovviamente c'è sempre un po' di remora, perché sono prodotti che non si conoscono più che altro, e quindi quando uno li propone poi la gente li apprezza, è sempre così. Bene, grazie Alfredo Russo. Allora abbiamo visitato anche la Reggia di Venaria, ma ora torniamo indietro, torniamo a Reggio Emilia e torniamo alla mostra di cui abbiamo parlato, di fotografia europea, anche perché voglio segnalare un altro posto molto particolare della provincia di Reggio Emilia, che è l'Osteria del Viandante, un ristorante diventato molto famoso per le carni. E abbiamo con noi Dolores, appunto Gobbi, del ristorante Osteria del Viandante. Lei è la chef e anche quella che studia i menù, studia anche le tipologie di cottura. Buongiorno Dolores. Buongiorno a tutti. So che siete in vacanza, siete in viaggio, ma ci dici ultimamente cosa hai creato di nuovo, cosa hai portato di nuovo nel menù? C'è qualcosa di nuovo? Beh, di nuovo e di vecchio. Forse, guarda, mi rifaccio proprio al discorso della mostra fotografica che è intitolata L'Eternità, no? Sì. È un tempo sospeso, no? Un tempo della meditazione, un tempo dell'arte. Però nello stesso tempo coniuga anche diversi elementi, la memoria e le nuove tecnologie, e mi pare molto adatto alla cucina, anche perché proprio in questo periodo, in occasione dei 150 anni circa della nascita dell'osteria, abbiamo riprodotto un menù che è tipicamente della memoria, le lasagne. Ah, fantastico. Le lasagne e una padellata di porri e patate e il coniglio arrosto con il purè. Cioè, ma abbiamo voluto ritornare indietro per fare anche un passo avanti, volendo. Però mi piaceva molto questo discorso di riprendere, diciamo così, un attimo quelle che sono le nostre radici, e in questa occasione anche ricordare quella che era la nascita dell'osteria. Beh, devo dire che queste lasagne ricordano un po' una mia, così, un mio pezzo, un mio slogan che ho fatto un po' di tempo fa: torniamo alle lasagne. L'ho detto non ridendo, scherzando, però l'ho detto per dire torniamo un po' indietro, e sicuramente le lasagne rappresentano un po' questo. Ma le lasagne lasagne del Reggiano sono fatte con gli spinaci o con la farina? No, sono fatte di pasta verde con gli spinaci, quindi una pasta verde con la besciamella e un ragù fatto come si deve, poi fatto a strati e messo in forno. Direi che alla gente piace molto, anche perché, sai, ricorda un pochino il pranzo della domenica. Certo, stavolta. fuori porta. Io volevo dire, esatto, verdi o bianche, nel senso volevo distinguere, sì, questo. Ci vuole anche con gli spinaci, sì, e la farina sicuramente per amalgamare, però volevo distinguere su questo perché in alcune parti d'Italia le lasagne sono bianche. Io sono per il verde, decisamente, siamo perché, verdi. Perché anche verde della Romagna. Quindi anche in Romagna sono in questa maniera. Ecco, volevo chiederti, ma il commensale, il cliente, come reagisce di fronte a un menù così tradizionale, così diciamo casalingo? Beh, guarda, per alcuni è una riscoperta perché li riporta indietro un attimo a certe festività. È un po' difficile trovare al ristorante una lasagna e un menù così da casa, da festa. Quindi reagisce molto bene. E i giovani comunque vedo che, siccome la nostra clientela è anche abbastanza giovane, vedo che apprezzano molto, perché comunque non la mangi tutti i giorni. La lasagna è un piatto lungo, insomma, sono quei piatti comunque che richiedono tempo e cottura e lunga preparazione. Magari quei giovani non le hanno mai assaggiate le lasagne, è la prima volta. Sì, se non proprio, diciamo così, con un sapore differente, insomma. Hai rifatto anche qualche dolce, diciamo, della sì, domenica? Quello che chiamavamo il dolce mattonella, sì, che è fatto con i famosi biscotti Orosai bastrati imbevuto nel caffè con crema di burro alle uova e al cioccolato. È tipico proprio delle nostre zone. Quindi dolce mattonella. Allora, esatto, allora ripetiamo, esatto, lasagne con, sì, coniglio arrosto, esatto, e dolce mattonella. E dolce alla mattonella. E come antipasto c'è qualcosa? I crostini magari? Sì. No, questa no, noi non abbiamo questa lezione. C'è questa, diciamo, passata di patate e porri con pancetta croccante, che riprende un pochino il tema della vecchia padellata di porri e patate. Bene, allora grazie. Allora, fotografia europea, eternità appunto raccontata e così anche esplicitata da questo menù dell'Osteria del Viandante di Rubiera in provincia di Reggio Emilia. Bene, questo viaggio è stato lungo, abbiamo visitato molte mostre sparse per l'Italia. Siamo partiti da Urbino, poi siamo scesi, anzi siamo risaliti a Rovereto, poi a Forlì, poi a Cesena, quindi alla Reggia di Venaria e quindi poi siamo andati a Reggio Emilia. Bene, un bel viaggio per chi vuole appunto mescolare il viaggio culturale con il cibo o viceversa, perché può succedere a tanti, come è successo tante volte anche a me, di andare a mangiare da qualche parte e di scoprire magari un qualcosa di particolare, di artistico o un evento culturale magari di cui non si sapeva assolutamente niente. Cibo e cultura, lo dico sempre, e quindi sicuramente sono due argomenti che si accostano e diciamo si sposano molto ma molto volentieri. Bene, il vostro gastronauta vi saluta e vi dà appuntamento a un bellissimo viaggio, a una mostra e a un tavolo goloso, e vi dà appuntamento domani alle 10 con la replica di questa trasmissione, alle 12:15 con il wine bar del gastronauta e tutti i giorni con la pillola delle 18:30. Buon weekend a tutti!